Perché poi adesso la Flavia. Dammi l'ok. Pronto? Ciao Flavia, buona giornata. Ciao, grazie, per te. In questo orario qua potresti pregare sempre? È stato lo spirito che mi ha ispirato allora. Sì, sì, infatti. Interessante questo. Questa linea diretta con l'alto mi emoziona sempre. Sì. Allora, siccome è lui che ci fa pregare, questo volevo dire, non che io fossi così bravo da avere linee dirette. E lui, dice San Paolo, che ispira. Il desiderio della preghiera. Ada ha problemi col computer, in attesa che lei li risolva, noi la teniamo nella nostra preghiera, insieme a Marilena e Diana. E ci uniamo alla preghiera della Chiesa Universale. Vuoi guidare tu le lodi di stamattina? Oddio. Va bene. Così impari. Così impari, è sempre una prima volta. Sì, sì, va bene. Dai. Sì, comincia col segno della croce. In nome del Padre, dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria. O Padre Santo, fonte d'ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio, nel Santo Spirito. Amen. Manda la tua verità e la tua luce, mi guidino al tuo Monte Santo. Fammi giustizia, Dio, difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo iniquo e fallace. Tu sei il Dio della mia difesa, perché mi respingi? Perché triste me ne vado oppresso dal nemico? Manda la tua verità e la tua luce. Siano esse a guidarmi, mi portino al tuo Monte Santo e alle tue dimore. Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia e del mio giubilo. A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manda la tua verità e la tua luce, mi guidino al tuo Monte Santo. Ogni giorno della vita, salvaci, Signore. Io dicevo, a metà della mia vita, me ne vado alle porte degli inferi. Sono privato del resto dei miei anni. Dicevo, non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi. Non vedrò più nessuno fra gli abitanti di questo mondo. La mia tenda è stata diverta e gettata lontano. Come una tenda di pastori. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita. Mi recidi dall'ordito, in un giorno e una notte mi conduce alla fine. Io ho gridato fino al mattino. Come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa. Pigolo come una rondine, gemmo come una colomba. Sono stanchi i miei occhi di guardare in alto. Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati. Poiché non ti lodano gli inferi, né la morte ti canta inni. Quanti scendono nella fossa, nella tua fedeltà, non sperano. Il vivente ti rende grazie, come io faccio quest'oggi. Il Padre farà conoscere ai figli la fedeltà del tuo amore. Il Signore si è degnato di aiutarmi, per questo canteremo sulle cetre. Tutti i giorni della nostra vita canteremo nel Tempio del Signore. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ogni giorno della vita, salvaci, Signore. A te si deve lode, o Dio, in Sion. A te si scioglie il voto in Gerusalemme. A te, che ascolti la preghiera, viene ogni mortale. Pesano su di noi le nostre colpe, ma tu perdoni i nostri peccati. Beato chi hai scelto e chiamato vicino, abiterà nei tuoi atri. Ci sazieremo dei beni della tua casa, della santità del tuo tempio. Con i prodigi della tua giustizia, tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, speranza dei confini della terra e dei mari lontani. Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto di potenza. Tu fai tacere il fragore del mare, il fragore dei suoi flutti. Tu placchi il tumulto dei popoli. Gli abitanti degli estremi confini stupiscono davanti ai tuoi prodigi. Di gioia fai gridare la terra, le soglie dell'Oriente e dell'Occidente. Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi delle sue ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu fai crescere il frumento per gli uomini. Così prepari la terra, nei rivi solchi, nei spiani le zolle. La bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. Coroni l'anno con i tuoi benefici e al tuo passaggio stilla l'abbondanza. Stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza. I prati si coprono di greggi, di frumento si ammantano le valli, tutto canta e grida di gioia. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te si deve lode, o Dio, in Sion. Voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che il giorno del Signore possa sorprendervi come un ladro. Voi tutti, infatti, siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola. Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola. Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola. Per quelli che ci odiano, salvaci, o Signore. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti in tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella passione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. E dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore. Gloria al Glorifichiamo il Salvatore che con la sua risurrezione è divenuto luce e vita del mondo. A lui si innalzi la nostra umile preghiera. Guidaci, Signore, nelle tue vie. Con la lode matutina celebriamo la tua risurrezione, Signore. La speranza della tua gloria illumini la nostra giornata. Benedici le nostre aspirazioni e i nostri propositi. Siano le primizie della nostra offerta. Fa che oggi cresciamo nel tuo amore. E tutto cooperi al bene nostro e di tutti. Fa che la nostra luce splenda davanti agli uomini. Perché vedano le nostre opere buone e glorifichino il Padre che è nei cieli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Oddio, hai mandato a noi la luce vera, che guida tutti gli uomini alla salvezza. Donaci la forza dello Spirito, perché possiamo preparare davanti al Figlio tuo la via della giustizia e della pace. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica. Ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo per i membri attuali e futuri del piccolo monastero. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Carissima Flavia, buon pranzo quando arrivi, eh? Bene, Signore. Grazie. Grazie per questa preghiera. No, grazie a te. E chiama quando vuoi e quando puoi. Sì, ti devo un ultimo messaggino. Sì. Infatti ho scritto stamattina, poi te lo scrivo. Ok, ok. Grazie. Un abbraccio nel Signore, pace e gioia. Grazie anche a te. Ciao Flavia.